L'Università di Pignano Bolognese è l'ultima esperienza riconosciuta, modalità riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura, a rappresentanza del mondo agricolo biologico, ma non solo e non tanto come produttori, ma come promotori di comunità nei territori. E già questa è una parte importante, soprattutto per l'attenzione che necessita questo aspetto. E il progetto cosa propone e quale visione si può avere? Allora, il progetto in generale nostro, la nostra finalità è quella di cercare di contribuire a ripopolare i territori dell'Appennino, ripopolare in termini agricoli e di allevamento. Questa è la nostra missione principale, che vuol dire mantenere e rafforzare dove è possibile ciò che esiste di buono, di positivo. Noi lavoriamo nel mondo biologico, quindi c'è un certo approccio agli animali, non siamo gli allevatori intensivi, per intenderci, siamo dall'altra parte. E cercare di costruire del nuovo. Del nuovo è possibile perché se tu rimarrai con noi una mezz'oretta vedrai Certo. parecchi giovani che sono anime, vere e proprie anime del territorio perché operano con una passione straordinaria al di là anche di quello che è una redditività, ma perché è vita che si costruisce. E per noi questa doppia componente di alcune aziende storiche che hanno magari cominciato con me, che è una certa età anche se nessuno lo vede perché siamo per radio, e questi giovani 20, 30, 40 anni che si stanno ricominciando. Cominciando un percorso che è di vita e anche di allevamento straordinariamente interessante perché sono la vera alternativa oggi agli allevamenti intensivi e alla possibilità di ricostruire un rapporto con gli animali e con l'ambiente, che è il nocciolo dell'agroecologia. La zona c'è una specificità o è estesa? Guarda, è estesa perché è tutto l'Appennino bolognese, quindi andiamo, sono 30 comuni ed è compreso anche Bologna. Per noi è molto importante Certo. questa cosa fin dall'inizio perché Bologna è parte dell'Appennino bolognese, non tanto perché abbia San Luca, No. ma perché l'Appennino è il suo giardino, è il suo parco, è la sua aria, la sua acqua e noi vorremmo che diventasse sempre più anche il suo cibo e la sua paesaggio, la sua bellezza e viceversa è anche il suo mercato principale per quanto riguarda l'Appennino. A questo punto mi sono incuriosito per quanto riguarda l'aspetto agricolo di quali realtà sono più frequenti? Glielo chiedo da, diciamo Allora, così, esterno, uomo di pianura, ecco. quelle che erano più frequenti erano gli allevamenti. Il nostro Appennino sarebbe ideale per gli allevamenti di qualunque tipo, che sono stati falcidiati, quasi azzerati, tranne qualcuno bovino nell'area est dell'Appennino, di bovini, che per fortuna rimangono grazie a Granarolo in particolare, ma che però non portano un gran valore aggiunto nel territorio, perché poi il latte viene trasformato e venduto giù. Quindi c'è un problema importante di una trasformazione vicina dei prodotti che dia valore a quelle specificità, come fa per esempio il forno Calzolari, che voi vedrete qui oggi, nella sua ultima generazione, perché saranno le figlie di 22-23 anni che stanno prendendo un po' a mano anche tante cose. Perché ti dico la trasformazione? Perché la trasformazione è importante che sia vicina, perché è l'unica che può dare, se è vicina, valore a quelle determinate caratteristiche di quel prodotto. E dare Certo. valore a quelle caratteristiche di quel prodotto vuol dire togliere da un'idea di standardizzazione e rimanere invece legato a quello che è una qualità ambientale, nutrizionale, ma anche valoriale e relazionale. E per quanto riguarda, diciamo, la proposta, entriamo nel concreto, cosa succede? Oggi succede che noi lanciamo dei corsi che riguarderanno il vino in particolare, che riguardano gli allevamenti, riguarderanno i cereali e saranno corsi a tutto tondo dove la principale caratteristica è che le facciamo nelle aziende. Quindi chi vi partecipa sta nell'azienda, non sta dentro delle aule, sta nelle stalle, sta dal panettiere, nella cantina e i docenti sono questi straordinari produttori che lì ci vivono e che quindi sono in grado di trasferire passione, mestiere e anche economia, ovviamente. In numeri quanti sono, più o meno? Le imprese che fanno parte sono 50, circa 50. In tutti i nostri soci sono un centinaio, perché il biodistretto, come dicevo all'inizio, raccoglie tutti loro i quali sono impegnati in un'idea di sostenibilità, di sviluppo, di crescita sostenibile di un territorio, sostenibile con la S maiuscola, quella Certo. vera, non con la chiacchiera. E quindi si parte dalla terra, ma l'obiettivo è quello di ricostituire comunità.